parole in effetto, qua germo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato e solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire! E ciao a tutti, siamo sull'1359, la modulazione di frequenza in onde medie alla quale avete trovato o avete cercato Radio Wombat. Questo è lo spazio della stampa rassegnata, una delle trasmissioni informative della nostra radio con la quale da oltre un anno ormai ci riserviamo la possibilità e per certi versi, se ce lo concedete, anche il privilegio di darvi informazioni fresche, vive, dalle piazze, dalle situazioni di lotta, dalle vertenze che animano la nostra area metropolitana fiorentina. Per molto tempo è stato uno dei focus della nostra trasmissione l'analisi e il racconto per certi versi puntuale di quello che accade nella piana, e resta uno delle nostre ambiti di maggiore interesse, anche se non l'unico. Da un po', per chi ci ascolta con regolarità, ormai lo ha capito e messo in conto, abbiamo un po' tentato di aprire i nostri microfoni anche alle vive voci delle vertenze per prenderci a volte degli spunti contingenti, altre volte delle riflessioni più ampie e più ponderate. Questa settimana vorremmo recuperare un evento sul quale non siamo riusciti come radio né come redazione della stampa rassegnata a fornire un'informazione puntuale e nel momento in cui accadeva, ma ci riserviamo comunque la possibilità di farne un ragionamento e di utilizzarlo come spunto. Sto parlando della ricorrenza ad un anno di distanza dall'omicidio di Idi Diene, il lavoratore, il migrante senegalese che si trovava sul ponte Vespucci e che ha trovato purtroppo la morte sotto i colpi di arma da fuoco sparati da Roberto Pirroni. E a distanza di un anno la Firenze antirazzista, in una manifestazione composita e anche per certi versi controversa, ha ricordato quello che è successo. Chiaramente lo ha ricordato in una città dove il Partito Democratico continua a governare e lo vediamo impegnato a seguire e inseguire per molti aspetti su questo terreno ricerca del consenso le politiche della destra, e dall'altra parte lo vediamo in una situazione nazionale, in una situazione paese, dove i temi della sicurezza, dell'odio, della xenofobia, del securitarismo in salsa xenofoba e razzista sono sempre più all'ordine del giorno e informano sempre più la scaletta e l'agenda politica sia delle forze politiche maggioritarie, sia in qualche modo penetrano e diventano discorso e luogo comune. Quindi la manifestazione del 5 di marzo ci è sembrata certamente una risposta interessante, una risposta che merita di essere guardata, approfondita e magari possibilmente dalla viva voce di coloro che l'hanno indetta e organizzata. E nonostante il ritardo che abbiamo annunciato, mettendo quindi le mani avanti sulla nostra, incapacità di dare una copertura precisa a quell'evento, cercheremo di recuperare il tempo perso, che non è del tutto perso. L'abbiamo fatto quindi, il tentativo di dare voce a questa piazza lo abbiamo fatto in due modi: con un intervento in presa diretta con Vanni del collettivo di Scienze Politiche, una delle realtà che ha indetto la manifestazione e l'ha organizzata, che come riconoscerete anche dalle voci e dai cori di sottofondo ci parla direttamente dal corteo del 5 di marzo, e invece poi con un'altra voce per dare voce appunto a un'altra esperienza che anch'essa tra gli organizzatori e le organizzatrici della manifestazione, con Manuela della rete antirazzista, un soggetto storico che attraversa e si radica nella città di Firenze da molti e molti anni. anni. Quindi niente, insomma, la parola cercherò di lasciarla a loro, ritornerò chiaramente anche io, insomma, anche la mia voce ritornerà diciamo nell'intervista e nelle domande che abbiamo fatto a questi due compagni ai quali andiamo a dare la parola. Prima quindi l'intervento di Vanni, semplicemente perché da un punto di vista cronologico viene prima, perché è stato appunto in presa diretta il 5 di marzo, e poi ci ritorneremo con Manuela. Tra i due uno stacchetto musicale, una provocazione dei 99 Post, di quel Luca Zulù intramontabile che però insomma crediamo che sia sempre purtroppo attuale. Ciao a tutti! Sono Vanni del collettivo Scienze Politiche, sono qua al corteo, siamo per arrivare in piazza piazza Signoria, sotto il comune di Firenze, quel solito comune dove, come è stato detto, è partita la rabbia dei senegalesi un anno fa, dopo infatti l'uccisione di IDDN da parte di Roberto Pirrone sul ponte Vespucci, dove Pirrone era andato per provare a suicidarsi, ha deciso diversamente ed si è rivolto verso il ponte, ha trovato una serie di persone bianche e ha deciso volutamente di andare invece a ammazzare il lavoratore nero IDDN, un lavoratore che anche in questo caso è senegalese, come Samb Diop, e ricordiamo sempre e in ogni nostra manifestazioni uccisi dal fascista di Casa Pound Casseri in Piazza Dalmazia, nella strage di Piazza Dalmazia. Siamo qua sotto al comune in Piazza Signoria per ricordare al sindaco Nardella, lo stesso sindaco che un anno fa non ha voluto e non ha neanche avuto la decenza di scendere e di parlare con la comunità e con i senegalesi che erano incazzati dopo quello che era successo a distanza di qualche anno dalla strage di Piazza Dalmazia, ancora un senegalese, e il sindaco non si è voluto degnare di scendere, ha portato avanti ha lasciato un portavoce per dire che lui aveva cose più importanti da fare piuttosto che scendere e parlare, dopo che non sappiamo bene cosa possa essere più importante di un omicidio a sfondo razziale nella nostra città. Dopo questo, per riportare i fatti di quello che è successo un anno fa, la rabbia sana e giusta e genuina dei senegalesi si è espressa buttando giù alcune fioriere, quelle stesse fioriere antiterrorismo che sono state messe a giro per la città e che sono state buttate per terra, rotte, e di cui il sindaco Nardella si è tanto impegnato a condannare queste atroci violenze e non l'uccisione di una persona di pelle nera volutamente scelta da Roberto Pirrone. Quello che noi abbiamo detto e che continueremo a dire è che la colpa di tutto questo, e l'abbiamo anche voluto rimarcare in uno striscione lasciato poco tempo fa su Ponte Vespucci durante questo corteo, è che la responsabilità è di tutti i nostri politici, di tutti quelli che stanno portando avanti una politica di odio e di razzismo in questa città e in tutta Italia. Questo lo possiamo guardare, come abbiamo scritto, da Renzi, Nardella, Di Maio, Salvini e Minniti, tutti politici di differenti collocazioni, di differenti partiti, ma che poi alla fine le loro politiche sono sempre quelle di odio, quelle di segregazione del diverso, quella di razzismo. Possiamo vederlo con Minniti e con Salvini, che sono gli stessi ministri dell'interno che hanno fatto le stesse identiche cose durante i loro governi, e tanto più un Renzi o un Nardella che il continuo il sindaco che ha continuato nello stesso solco di Renzi e nello stesso solco di tanti altri quello che è successo e che stanno portando avanti in questa città, una visione di sicurezza che è legata solo e soltanto a, al difendersi dai terroristi e dai terroristi dell'ISIS, quando poi in questa città si spara e si spara contro i neri. Una città dove ci sono, come è stato detto anche poco fa, abusi in divisa, dove le stesse guardie municipali della polizia municipale qualche giorno fa fanno svenire un ragazzo senegalese, un ragazzo di 18 anni, un ragazzo nero di 18 anni che è stato portato via su una macchina, svenuto dopo un intervento della polizia municipale in cui l'avevano buttato a terra. Non è stato neanche medicato, non è stato neanche chiamato un'ambulanza, ma è stato portato via in fretta e furia con altre persone che giustamente erano lì ad incazzarsi per quello che stava succedendo. Ma per noi non è nuovo in una città dove Riccardo Magherini è stato ucciso dalle forze dell'ordine, dove due studentesse americane sono state stuprate da dei carabinieri in servizio e dove, come partendo anche e continuando diciamo nell'ultima settimana, c'è stato anche il caso degli ultras dell'Atalanta al ponte del Vallungo, dove sono stati picchiati selvaggiamente dalla polizia che aveva bloccato i pullman. Questo per dire che tutto questo viene riportato all'interno del corteo, tutto questo è quello che stiamo vivendo adesso. Ci sono centinaia e centinaia di persone che stanno manifestando adesso qua per le strade di Firenze, che hanno portato tutto questo, hanno portato la solidarietà al ragazzo picchiato dalle forze dell'ordine. È stata portata ovviamente il ricordo di Didier, come ho già detto, e ancora una volta vogliamo ribadire che in questa città non c'è posto per razzisti, non c'è posto per fascisti, e che saremo sempre in piazza e porteremo sempre queste parole contro il razzismo e il fascismo in una città, come ho già detto, intrisa di odio e xenofobia, e in un paese che sempre di più sta andando in un baratro da cui dobbiamo rialzarci e da cui ci rialzeremo anche grazie al ricordo e alla storia di quello che è successo nella nostra città e in tutta Italia. From the county jail, another man done gone. Il sole del mattino spunta e nasce un nuovo giorno pieno di vecchi problemi, vuoi levarteli di torno. Quando il traffico ti inchioda in un ingorgo bloccato, quando vedi un immigrato, quando pensi a come vive le sue storie di merda, quando ne senti la puzza e non vorresti sentirla, quando prima di ogni cosa vuoi levartelo di torno e poco importa se i tuoi soldi sono un po' anche di suo nonno, quando tu non sei razzista ma non sei nemmeno Dio, quando non è colpa loro ma anche loro porco Dio, allora spara bastardo, dai sparagli addosso, tanto domani sono morti lo stesso, dai sparagli addosso, ammazzali tutti, dai noi siamo i belli, loro sono brutti, dai loro sono brutti ma brutti davvero, e poi spara anche me, sono uno di loro e tu spara. perché senza protezioni, quando i morti di fame se ne contano a milioni, quando la camorra ammazza meno gente del lavoro, mentre tu povero stronzo piange ancora Aldo Moro, quando anche un bambino sa quanta gente morirà, quando cazzano un neotoio e non vuoi sentire parlare, allora spara bastardo, dai sparagli addosso, tanto domani sono morti lo stesso, dai sparagli addosso, ammazzati tutti, dai noi siamo i belli, loro sono brutti, dai loro sono brutti, ma brutti davvero, e poi spara anche me, sono uno di loro e tu spara, sono una rapore, tu spara, ho sbagliato a nascere, spara, sono un immigrato e tu spara, sono povero e tu rientrati in voce. Per chi si fosse collegato adesso, questo è Radio Wombat, siete sullo spazio della stampa rassegnata, avete ascoltato i 99 Posse in uno dei loro storici pezzi, una provocazione intellettuale e sociale che purtroppo non è mai passata di moda, se così si può dire. Stiamo parlando oggi in questa puntata settimanale della ricorrenza ad un anno dall'omicidio sul ponte Vespucci del lavoratore, del migrante, dell'immigrato senegalese Idi Diene, ucciso da Roberto Pirrone. Prima del pezzo musicale ha parlato Vanni del collettivo di Scienze Politiche, e ora proseguiamo il nostro lavoro di apertura dei microfoni per questa manifestazione con l'intervista che abbiamo realizzato dopo il corteo con Manuela della rete antirazzista fiorentina. Ciao Manuela, e a te chiediamo appunto di raccontarci quello che è successo durante la manifestazione e perché e per come i precedenti di questa manifestazione appunto. Ma senti, è stato un evento che abbiamo cercato di organizzare per tempo. Io faccio parte della rete antirazzista da tanti anni, e almeno sono 30 anni di rete antirazzista a livello nazionale, a quello locale, e faccio parte anche della compagnia Corpi, che è compagnia resistente popolare internazionale, che vede al suo interno persone di più età e di varie provenienze geografiche, per cui quindi ci sono persone che provengono, molte persone provengono dall'Africa. E l'idea di ricordare i DN è venuta soprattutto in un primo momento proprio alla compagnia teatrale a cui appartengo. L'idea era di portare una performance sul ponte Vespucci, una performance di teatro, danza, e di coinvolgere i vari movimenti. La cosa è stata presentata alla rete antirazzista e anche a Resiste, Umani per Resistere, che non so se voi conoscete anche questa nuova realtà, e da lì è venuto fuori di coinvolgere più movimenti possibili che tra l'altro avevano preso parte all'ultima manifestazione antirazzista di novembre, e di partire dal ponte dove è stato ucciso il DDN e di coinvolgere anche attraverso questo linguaggio artistico e poi con una manifestazione diciamo di tipo tradizionale anche la cittadinanza, che via via avrebbe assistito a questa manifestazione. Ci sono state varie riunioni organizzate dalla rete insieme anche a Corpi, e sono state presenti varie realtà antirazziste che operano in città, tra cui il CPA, l'AMPI, la Comune, poi chi c'erano, gli studenti di sinistra, gli studenti collegati anche al CPA, i valdesi, insomma varie realtà, il movimento di lotta per la casa. Però che è successo? Nonostante che l'obiettivo fosse quello di unire soprattutto perché la manifestazione fosse bella, corposa e intelligente, in realtà poi è successo che qualcuno si è inserito perché non voleva manifestare insieme a questa componente. Purtroppo l'orario della manifestazione era le 18, questo organizzato dalla rete insieme a tutte queste realtà che ho elencato, poi qualcuna mi sfugge, ma insomma. E la CGIL insieme alla comunità senegalese, quella più istituzionale per capirci, sì, legata alla presidente assessora di Scandicci, eletta nelle liste PD, si è inserita con una propria manifestazione alle ore 17. Questo ha in qualche modo sconvolto un po' tutta l'organizzazione, perché lì ci deve essere la performance, ma anche la collocazione di una grande targa sul ponte. Sì. Queste realtà avevano anche praticamente avevano fatto realizzare una tipografia, eccetera. E tutto questo un pochino si è sfalsato, perché essendo già presente delle persone sul ponte non si capiva più se erano le persone che erano venute alla manifestazione non sapendo di questa presenza. E quindi la manifestazione è partita prima, sono arrivate altre persone quando la manifestazione ormai era già inerpicata verso le strade di via Palazzuolo, e quindi non poteva essere più vista, e quindi insomma si è perso un po' di gente, e un po' e anche nonostante che insomma un numero alto di persone fosse seguisse la manifestazione, però in realtà qualcosa si è rotto perché le cose importanti vengono organizzate sempre di più divise, perché non ci si può confondere nemmeno con la rete antirazzista, che come obiettivo è proprio quello di costruire reti. E questo è un po' un peccato, perché probabilmente, non so, si fa un gruppo elettorale per una sinistra più moderata da una parte e per una sinistra veramente sinistra dall'altra, e questo ce ne siamo accorti però in questa occasione, nel senso che se si fa una manifestazione per ricordare Idi, non si devono vedere, non si devono sentire appartenenze, ma unione per ricordare una persona che è stata uccisa per il colore della sua pelle, quindi per puro razzismo. Tutto qua, quindi questa è la situazione attuale, c'è un po' un impasse, anche se in città continuano a nascere iniziative anche importanti, come quella del 2 marzo, dove oltre alla sinistra anche più meno radicale, diciamo, più istituzionale, però bisogna riconoscere che in quella piazza c'erano anche tante persone che non sono iscritte a nulla, ma che sentivano il sentimento, avevano il sentimento di manifestare contro questo governo e contro le sue politiche razziste. Quindi e poi ci sono anche altre iniziative che stanno prendendo corpo, via via sbocciano un po' da tutte le parti. Importante è anche quella di Umani per Resistere, che è nata da una proposta della comunità delle piagge, che effettivamente si sta muovendo molto su questo tema. Tutti i giovedì, per esempio, da luglio, sì. Quindi viene organizzato un presidio digiuno in solidarietà con i migranti. Cioè, è importante anche dire queste cose, perché l'esclusiva è bene che non ce l'abbia nessuno in questo momento, ma che ci sia un concorso di forze che appunto portano avanti certe tematiche, appunto, e Umani per Resistere vede la presenza di tante persone che hanno firmato l'appello, circa 600 persone che decidono di disobbedire al decreto Salvini. Quindi bisogna apprezzare un po' tutte le realtà che si muovono e che non solo declamano e poi non le vedi mai e non si muovono mai. Ora la situazione è un po' questa. E senti, Manuela, ti volevo chiedere una cosa. Per quanto riguarda il processo all'autore materiale dell'omicidio di Idi, sul quale insomma c'è stato il tentativo, mi sembra di poter dire un po' strumentale, di ridurre il carico di responsabilità, anche politica se vogliamo, di quel tipo di gesto, perché lo abbiamo visto ricostruito minuziosamente anche dalle immagini che non sono girate ma che sappiamo esistere e che insomma smontano la teoria o perlomeno il racconto ufficiale per cui lui non sapeva bene a chi sparare, ha sparato al primo che passa. In realtà sappiamo che non è andata così. Ci sembra che nel processo è stato tentato anche la strada dell'incapacità di intendere e di volere, che però come a un certo punto è venuta meno. Ecco, per quanto riguarda il processo, ci sono degli aggiornamenti significativi, cose da segnalare o tutto sommato una questione che insomma ci riguarda e ci interessa fino a un certo punto? No, è chiaro che ci riguarda e che bisogna controllare. È chiaro che questa persona cercherà sempre una strada, una via d'uscita. Questo, tutto quello che hai detto è vero, ma sappiamo benissimo che lui è proprio il clima razzista in cui si viveva già nel governo con accanto Gentiloni, quindi eravamo già in una fase veramente notevole di razzismo, e lui si è mosso, ha aspettato, e il primo nero è arrivato, l'ha fatto fuori, quindi non c'è questa cosa. Quindi è chiaro che bisogna aspettare un po' quello che decide la magistratura, ma sempre e comunque condannare tutto quello che succede così, perché e io credo che lo abbiamo cercato di fare, anche se il risultato poi effettivo non ci è piaciuto, ma che il fatto che ci sia stata messa una targa appositamente, che avessimo presentato anche il tipo di performance come corpi alla moglie di e che fosse presente quando noi la organizzavamo e che fosse presente alla manifestazione, e questa è una risposta che poi sempre va migliorato la qualità di quello che facciamo, nonostante il lavoro che ci abbiamo messo. Anche questo va fatto, perché anche nel corteo non mi è piaciuta la posizione di qualcuno che radicalizza e insomma distrugge il fatto che insomma è molto faticoso unirci, e quando sei e conduci un corteo non puoi demonizzare le persone che non appartengono al tuo circuito e che magari stanno in quel momento marciando nel corteo. Bisogna un pochino metterci intelligenza da tutte le parti, perché nemmeno chi si ritiene di estrema sinistra, se ragiona in questo modo, sbaglia, e quindi ci vuole anche intelligenza, perché se vuoi che ci sia solidarietà per i fatti che ti avvengono e per quello che ti potrebbe succedere in un clima di questo tipo, è bene che un attimino tu cerchi di colloquiare senza offendere le persone che partecipano al corteo. Devi tenere presente che il mondo dell'antirazzismo è un pochino variegato, che non lo rappresenti solo te, e quindi è importante, insomma, perché anche il corteo a qualcuno, a me per esempio, certe affermazioni anche sulla piazza del 2 marzo a Milano, insomma, non mi sono piaciute, ma no, cioè c'erano presenze che non, a me non piacciono di sicuro, come quella del PD, però io non posso offendere tutti gli altri che non lo sono PD e che sono presenti, e la piazza era piena. Bisogna stare attenti, no, perché certo. In questo momento appunto bisogna non farsi prendere dalla mano, perché poi dopo la fatica che tu fai come rete a cercare di mettere insieme chi sta più a sinistra e via via si sale, ma insomma su dei contenuti che sono condivisi, allora se ci sono dei contenuti condivisi ragiona di quelli e fai a meno di offendere le altre persone che sono presenti. Ma la dialettica è sempre complicata, come ci hai sostituito te, ecco. Senti, Manuela, sì. Per non rubarti altro tempo, ma chiaramente sì, tenendoti come una collaboratrice, diciamo così, è sempre disponibile anche nel futuro, un ultimo spunto di riflessione te lo vorrei, più che altro una domanda. Come il lavoro di rete antirazzista nella città di Firenze? C'è una vicenda della quale noi ovviamente non potevamo non aver parlato a suo tempo, ma che è rimasta un po' in latenza, però ha avuto una certa esplosività per quanto riguarda la penetrazione del discorso razzista. E è la vicenda di Duccio Dini all'Isolotto, sulla quale in quel disgraziato incidente no? C'è stata poi, come sappiamo, il tentativo di strumentalizzazione da parte di organizzazioni propriamente di destra, anche di personaggi storici, no? della destra civile, con quel tentativo di andare verso il campo Rom, poi fermato dalla polizia, e sul quale poi sono intervenuti direttamente i vigili di Nardella, che di fatto hanno anticipato le dichiarazioni di Salvini, che aveva minacciato di arrivare a Firenze con i vigili e quant'altro. E ti volevo chiedere, visto che siete un soggetto molto radicato, che ha una storia nei quartieri e nella vita della città, che aria si respira a distanza di diversi mesi? Perché è ancora difficile, ancora un'aria difficile, però allora qualcosa è successo, perché noi volevamo come prima risposta, coinvolgendo la Casa del Popolo di San Bartolo e quindi anche l'Arci e tutte le altre realtà, eravamo, se tu pensi, mi sembra che fossimo già in luglio, quindi in un momento in cui tutti si disperdono, però abbiamo cercato di organizzare una cena con non solo cercando di unire le persone che comunque volevano riportare una situazione di convivenza civile nel quartiere 4 attraverso appunto una cena e anche così il racconto della cultura rom, che cose che si ripetono ormai da 30 anni nel quartiere 4. 30 anni fa si stava lavorando molto di più, no? Avevamo veramente costruito dei ponti tra rom e cittadini autoctoni, per modo di dire, però qualcosa veramente avevamo fatto, perché i bambini poi frequentavano le scuole, poi abbiamo cercato di valorizzare il lavoro per le donne, per gli uomini, eccetera. Quindi si era instaurata una convivenza più civile e di rapporto che andava e veniva dal campo al quartiere e viceversa. E grazie anche alla rete antirazzista e all'Associazione per la difesa delle minoranze. Però questa cosa via via un po' scemata quando il quartiere ha perso i suoi poteri e tutto è stato centralizzato con il Comune di Firenze. E allora queste azioni anche del quartiere e dello stesso movimento antirazzista sono diventate molto difficili. Episodiche. E allora l'episodio di Duccio Dini ha riportato a qualcosa che andava prima di 30 anni fa e di quella costruzione che si è fatto di positivo nel quartiere 4. Ci riportava a un clima, e poi chiaro ci ha marciato subito la destra. Non prendo in persona, no? Mi sembra di ricordare. Sì. Ma insomma, gli antirazzisti hanno cercato di rispondere. Però la mamma di Duccio Dini, quando mancavano 2 giorni all'organizzazione della cena, dell'evento, ha chiesto che questo non ci fosse più, perché lei appunto gli avevano detto che sarebbero venuti a disturbare la cena, i racconti, e che ci praticamente che si stava soffiando sul fuoco, e quindi il nostro tentativo di mitigare, di comunque di riportare anche a un ragionamento, a un allontanamento a questo atteggiamento di odio, insomma, veniva in qualche modo, cioè sarebbe stato monopolizzato anche dalla stampa, no? Dopo la morte di Uzzolini, scontro, e quindi di nuovo ci sarebbe stato confusione. Allora, dopo le parole, dopo la richiesta della mamma di Uzzolini, la cosa si è, non l'abbiamo più fatta, cioè con molto dispiacere, soprattutto dei Rom e anche nostro, perché dovevamo anche far capire il perché anche agli altri, a chi magari sarebbe venuto a cena. C'è stata un'assemblea molto, molto vivace alla Comunità delle Piagge, ci aveva ospitato in questo mese di luglio, e comunque abbiamo deciso di andare avanti. Allora, si è costituita un'associazione dei giovani Rom, per esempio, e ultimamente abbiamo deciso di riproporre la cosa, l'organizzazione di una cena, di una presentazione per la loro associazione. Ci è voluto del tempo, perché anche gli stessi Rom a volte accorrono e si muovono, a volte scappano, c'è anche da capire. Però i protagonisti devono essere anche loro, perché ci sono delle persone estremamente in gamba, come Demir Mustafa, che da una vita rappresenta la comunità Rom e porta avanti l'azione, la lotta per il suo popolo. Ci si dovrebbe essere, quindi si sta lavorando per, magari quando c'è questa iniziativa te lo faccio sapere. Sono molto contento che senza saperlo in qualche modo ci siamo avvicinati anche a un appuntamento che quindi si va definendo. Bene, sì, sentiamoci nei nostri microfoni con molto interesse e molta passione. Lo racconteremo, lo pubblicizziamo più che volentieri. Va bene. Penso che, Manuela, ti ringraziamo infinitamente per questo tuo contributo. Grazie per questa volta è tutto. E un abbraccio, pugni chiusi, e a risentirci presto. E tanti auguri per il vostro lavoro, che certamente in questi anni di Medioevo che torna. Non è assolutamente facile, quindi con grande rispetto e con grande stima ci salutiamo, ci risentiamo più avanti per i prossimi impegni. Grazie ancora. Un abbraccio. Ciao. Insomma, dopo aver parlato abbastanza lungamente e diffusamente, speriamo di aver reso un buon servizio a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat per quanto riguarda le vicende della Firenze che resiste al razzismo, alla discriminazione, alle espulsioni, alle politiche securitarie e tutto quello di cui abbiamo parlato con Vanni e con Manuela della Rete Antirazzista e Vanni invece del collettivo di Scienze Politiche. Andiamo a chiudere la trasmissione di questa settimana con uno dei nostri, se ce lo consentite, cavalli di battaglia, che sono le vicende legate ai conflitti territoriali e ambientali che in questi giorni, in queste settimane, forse possiamo dire anche in questi mesi, vedono l'avvicinarsi e il passaggio di scadenze sicuramente importanti. Da una parte un commento brevissimo a quello che è stato il giorno dello sciopero climatico, il 15 di marzo di quest'anno, primo sciopero mondiale climatico lanciato da quella galassia di realtà, di singoli e di soprattutto giovani che seguono un po' l'orientamento lanciato a livello globale da Greta Thunberg, la ragazzina Asperger che insomma impazza, se così possiamo dire, sui social, e che però insomma, per quanto riguarda perlomeno il nostro territorio, ci è sembrato un confronto indubbiamente interessante e uno spazio politico da guardare con una certa curiosità anche per quanto riguarda le istanze di base che dai nostri microfoni fioriscono, escono e entrano in modo abbastanza dialettico, perché non è stato il 15 di marzo un'alternativa compatibile a altre scadenze che invece si vengono ad approssimare. Con queste scadenze mi riferisco alla manifestazione che si prepara e che ormai insomma si va per definire a Roma il 23 di marzo, la marcia per il clima e contro le grandi opere inutili e dannose, lanciata da quel complesso di forze che non ruotano ma insomma che si organizzano e che vedono sicuramente nell'esperienza di resistenza territoriale della Val di Susa e dei NOTAV una stella polare e un riferimento. E certamente insomma molto importante questo aggregarsi, questo organizzarsi di forze intorno alla tematica del clima, e che però con il 15 marzo, che con il movimento dei Fridays for Future avevano fino ad oggi un legame ed un'interazione abbastanza labile. Probabilmente queste due istanze, questi due spazi politici si andranno in qualche modo a quantomeno a toccare, a tangere, e vediamo se ne nasceranno cose interessanti e degne dell'impegno e dell'attenzione dei compagni e delle compagne. Ci auguriamo di sì, e come ho detto il 15 di marzo a Firenze è stato sicuramente interessante, anche e forse principalmente per la capacità dei giovani, delle studentesse e degli studenti di ricacciare indietro e al mittente i tentativi di strumentalizzazione che sono arrivati sia dal Partito Democratico sia dalle liste degli ambientalisti per Nardella sia da Enrico Rossi. Le ragioni per le quali i giovani e le giovani che sono soprattutto impegnati nel movimento dei Fridays for Future hanno rifiutato e rispedito al mittente questi tentativi di strumentalizzazione vanno a collocarsi proprio nelle battaglie storiche che la nostra area metropolitana fiorentina affronta da anni proprio intorno ai temi della Piana, di questa grande vertenza della Piana che si è andata costituendo intorno a due grandi no: quello contro l'inceneritore o l'incenerimento in generale e quello contro l'espansione dell'aeroporto di Peretola. Espansione che però non tralasciamolo e non trascuriamolo mai, soprattutto perché la nostra radio è ascoltabile nell'area diciamo metropolitana fiorentina per l'appunto di Firenze nord-ovest, quindi del quartiere 5, e possibilmente probabilmente anche da qualcuno che vive nei quartieri attualmente sorvolati delle piagge di Quaracchi, di Peretola e di Brozzi. Non dimentichiamo anche il tentativo, che crediamo vada assolutamente fatto, di rendere gli aeroporti compatibili con le popolazioni e non le popolazioni compatibili con gli aeroporti. E quindi il movimento che andrà il 30 marzo a organizzare la manifestazione contro il nuovo aeroporto è però fortemente critico anche rispetto all'aeroporto attuale. Parliamo di in modo molto netto e molto esplicito di una necessità di ridimensionare drasticamente il numero di voli, le rotte, di compatibilizzare quindi l'aeroporto con il diritto alla vita e alla vivibilità delle popolazioni circostanti, che tra l'altro per l'appunto nella storia urbana dei quartieri che sono oggi maggiormente colpiti e impattati soprattutto dal rumore ma anche dalle emissioni inquinanti degli aerei, sono quartieri che precedono di decenni la collocazione dell'aeroporto. E quindi insomma il 30 marzo, ormai l'ho detto, ci sarà questa grande manifestazione, quindi questo vale un po' come uno spot. Come ho detto, siccome siamo in chiusura di trasmissione, abbiamo già parlato molto, non vorrei chiedere troppo all'attenzione dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, faccio proprio a spot un breve elenco di prossime iniziative che serviranno per l'appunto a lanciare e preparare il corteo del 30 marzo. Dalla prima utile, che è quella di mercoledì 20 alle ore 16 a Firenze, alla Sala Marmi del Parterre, cioè in Piazza della Libertà, ci sarà un incontro pubblico sulle infrastrutture e la mobilità, con la partecipazione di Alterpiana, questo collettivo diffuso sul territorio di urbanisti, di architetti, di studiosi, ma ovviamente di studiosi, per usare un termine caro al Novecento, di intellettuali organici che rispetto ai movimenti, ai comitati di abitanti, cittadini e classi subalterne si pongono il problema di analizzare e controanalizzare quelle che sono le mosse degli avversari. In questo senso Alterpiana è ovviamente tra i principali attori protagonisti del corteo del 30 marzo ed uno dei suoi promotori, quindi l'iniziativa in Piazza della Libertà vale come iniziativa di organizzazione vera e propria del corteo e di lancio. sempre mercoledì 20 alle ore 21:15 a Carmignano, in sala del comune, ci sarà l'incontro pubblico sempre con Alterpiana. Giovedì 21 invece alle ore 21:15 a Firenze, nell'occupazione di Viale Corsica 81, un'assemblea pubblica con il presidio non inceneritore no aeroporto dal titolo Rifredi, no ad un futuro di sorvoli, perché ricordiamolo in un brevissimo inciso, nel caso in cui dovessero realizzare il progetto di nuovo aeroporto, un numero consistente di voli in base alle condizioni di vento verrebbe dirottato su Firenze e quindi ci sarebbe la concreta possibilità che diversi atterraggi all'anno attraversassero Firenze passando una linea che va da più o meno Campo di Marte per passare sopra le cure, poi lo statuto Rifredi all'altezza di Piazza Dalmazia, poi Firenze Nova, poi il viale 11 agosto, la caserma Marescialli e finalmente l'atterraggio sulla nuova pista. Quindi questo è uno di questi, insomma, elementi portanti della nostra critica e del nostro no all'aeroporto. Sabato 23 a Roma invece, come ho già detto, la marcia per il clima, e ci sono i bus da Firenze, chi ancora non si fosse prenotato si faccia vivo e si faccia sentire. Martedì 26 alle ore 21:15 a Casale di Prato, accanto alla chiesa, nella sala polivalente, con il comitato di Casale e sempre Alterpiana, un incontro pubblico sempre in vista del 30 marzo. Giovedì 28 alle ore 21 a Firenze, al CSA Next Emerson, in via Bellagio a Castello, un'assemblea pubblica con Alterpiana e presidio no inceneritore, no aeroporto. Queste sono le iniziative che sono in aggiornamento, perché potrebbero esserci nuovi inserimenti, si stanno facendo davvero tanti incontri, volantinaggi, dai mercati ai circoli, dalle università alle scuole medie superiori, quindi chi volesse, ascoltando questa radio, mettersi in contatto con noi per organizzare un'assemblea informativa, per avere dei chiarimenti, per sapere qualunque cosa rispetto alla manifestazione del 30 marzo, che speriamo sia partecipatissima ed è per questo che ne parliamo, non esiti a farsi sentire e si metta in contatto con noi. Primi tra tutti, diciamo come riferimenti, il sito dell'Assemblea per la Piana contro le nocività, presidio no inceneritori no aeroporto, e anche la sua pagina Facebook, dalla quale poi trovate anche a sua volta riferimenti per il sito e per il blog. Niente, per questa settimana credo che sia davvero tutto, saluti e pugni chiusi a tutti e a tutte, a risentirci alla prossima settimana. Ciao!